Non sono un re, però lo faccio. Non vedo il sole, però lo sento. Non dico sì, però rispondo. Se a volte do, e a volte prendo. Se vado in là, non ci rimango. Rimango e mi diverto un mondo. Però se fa, fa troppo freddo, prendo le scale e non mi volto. Ci sono tutte quelle belle e quelle brutte, le mie amiche sono appena arrivate e hanno tanta voglia di cantare, le mie amiche sono tutte intonate. Io mi sforzo di restare al loro passo, ma è difficile, ve lo immaginate. Fanno solo le canzoni di successo e le vedo tutte emozionate. E ogni tanto loro guardano anche me, ma con lo sguardo di chi non ascolta. E allora io mi prendo la chitarra e gli rispondo come l'ultima volta. Non sono un re, però lo faccio. Non vedo il sole, però lo sento. Non dico sì, però rispondo. Se a volte do, io a volte prendo. Se vado in là, non ci rimango. Rimango e mi diverto un mondo. Però se fa, fa troppo freddo, prendo le scale e non mi volto.